24 di Giovanni Minoli, il faccia a faccia. Andrea Orlando Spezzino, 45 anni, scapolo, attento, prudente, pignolo, curioso di cambiare vita e esperienze. L'unico ministro non renziano del governo Renzi. La cosa che certamente ha in comune con lui però è la passione per la Fiorentina. Una storia politica PC, PDS, DS. Scoperto da Bersani, dicono i bersaniani. È stato lanciato da Fassino, dicono i fassiniani. È stato portavoce di Veltroni, ma la medaglia d'oro è che non è mai stato d'Alemiano. Per mantenersi e studiare ha fatto tanti lavori. Una cosa è certa, quest'estate era l'anniversario dei 50 anni della morte di Togliatti e lui c'era. Ecco, onorevole Orlando, perché? Perché credo che sia uno dei grandi fondatori della nostra Repubblica e che ad alcune sue intuizioni si debba il fatto che il passaggio dalla dittatura alla democrazia sia stato fatto. Senta, Togliatti, ministro di giustizia del primo governo De Gasperi, subito dopo la guerra ha fatto una cosa molto forte: l'indulto e l'amnistia. Lei ci ha pensato? Ma si tratta di provvedimenti diversi. Allora era un provvedimento politico per chiudere una guerra civile, oggi si tratterebbe di utilizzarlo nel caso per affrontare il tema del sovraffollamento. Ecco, ma non è una strada per ridurre il sovraffollamento delle carceri. Ma ne abbiamo seguite delle altre che per il momento stanno dando dei risultati. Abbiamo iniziato a puntare sulle pene alternative, sulla liberazione anticipata, siamo passati da sfiorare i 70.000 detenuti ai 54.000 attuali. Ecco, però Napolitano aveva chiesto un intervento del genere togliattiano, non è capitato nulla. Ma io non ho una pregiudiziale ideologica, però devo dire che la Corte di Strasburgo, che ci aveva messo sotto accusa, sì, infatti, qualche giorno fa ha dichiarato che i provvedimenti assunti dall'Italia sono provvedimenti che hanno affrontato l'emergenza. Quindi quando lei dice bisogna affrontare l'emergenza esplosiva delle carceri, la strada è quella che ha preso. Sì, poi c'è molto altro da fare, perché questo non significa ancora che abbiamo un carcere all'altezza della situazione. Certo, no. E dobbiamo rivedere la disciplina penitenziaria, dobbiamo ancora spingere sulle pene alternative, dobbiamo sul lavoro, puntare sul lavoro in carcere, fare in modo tale che il modello di reclusione non sia passivo come quello attuale. Però diciamo che ho visto a Padova un'esperienza fantastica di lavoro in carcere. Sì, producono biciclette, panettoni, assolutamente. Sì. Certo, quando il lavoro scarseggia fuori è difficile poi portarlo dentro il carcere, però si può fare molto di più sul fronte del lavoro, ancora sullo studio. Insomma, ecco, ma secondo lei sabato Togliatti sarebbe andato a Piazza San Giovanni o a Leopolda? Ma è una condizione impossibile, perché da un lato non ci sarebbe mai stata un'iniziativa promossa dal segretario che non fosse di partito, e dall'altro una manifestazione della CGIL il giorno in cui un segretario del partito principale non l'avrebbero mai fatta. Quindi non credo che si sarebbe trovato confronto nell'imbarazzo di questa scelta. Lei invece ce l'ha avuto l'imbarazzo, era in giro a lavorare, però non è andato né qua né là. Non sarei andato dove si manifesta contro il governo del quale faccio parte, perché quando questo è avvenuto non ha portato molto bene. Il governo Prodi, sì. È capitato. Ecco, ma chi era in Piazza San Giovanni, per coerenza, secondo lei deve uscire dal PD? Secondo me dal PD non deve uscire nessuno e bisogna sforzarsi di ascoltare le ragioni di tutti. Certo, chi non ci andava magari alle manifestazioni prima è incominciato ad andarci adesso, qualche sospetto, qualche dubbio gli viene. Bisognerebbe farselo venire. Sì. Ecco, Fassina qui ieri ha detto sono piazze inconciliabili. Beh, piazza inconciliabile vuol dire scissione. Io credo che il compito di un dirigente politico sia quello di rendere conciliabili delle spinte che comunque... Però ha detto inconciliabili. E credo che faccia un errore di valutazione. Va verso la scissione lui. Ma a forza di parlarne il rischio che qualcosa in moto si metta, cioè io mi auguro che non ci sia, perché come io e Fassina sappiamo fin da bambini, una delle malattie croniche della sinistra italiana è quella delle scissioni. Senta, ministro Orlando, lei non è renziano, ma quegli slogan contro Renzi della piazza però hanno fatto effetto. Ma nelle piazze si dicono tantissime cose, sì, non possono essere controllate. Quello che dico è che una demonizzazione che sta venendo avanti può diventare pericolosa, soprattutto perché prescinde dal merito delle cose, nel senso che la manovra che stiamo portando avanti è una manovra che per la prima volta opera delle iniziative di redistribuzione del reddito, mette in discussione il rigore cieco europeo. Sono tutte cose che da tempo anche chi se ne parla, adesso si cominciano a fare. Anche chi è andato in piazza rivendicava. E poi si può non essere d'accordo sulle soluzioni, ma non riconoscere questo dato io credo che sia un po' il sintomo di un certo pregiudizio. Pregiudizio. Ecco, parliamo di giustizia, che è un tema qualificante per il vostro governo. Cominciare con attaccare i 45 giorni di ferie del magistrato è stata una provocazione voluta? No, è stata una misura necessaria a migliorare le performance della giustizia italiana. Vabbè, però è una bella provocazione, diciamocelo chiaro. È stata un'idea sua o di Renzi? È un'idea del governo. Del governo, tutti e due d'accordo, ho capito. Senta, ma è facile o difficile andare d'accordo con Renzi? Beh, abbiamo sicuramente culture politiche diverse e anche temperamenti diversi. Per il momento abbiamo lavorato, credo, in modo proficuo. Senta, in ogni caso è stato un modo per dire è tornata la politica, riaffermare diciamo il primato della politica e mettere una fine alla supplenza dei giudici, così? Ma credo che il primato della politica si debba realizzare per altre vie. Questo è semplicemente un modo di segnalarlo. Un modo di dire a tutti: siamo qua. C'è una situazione di difficoltà, ognuno se ne faccia carico per una quota parte. Ecco, io non considero questo provvedimento un provvedimento determinante e decisivo, ma è un segnale del fatto che comunque si chiede un po' a tutti di cambiare delle abitudini. Cioè nessuno può essere casta avulsa dal contesto. Ma sì, ma al di là del termine casta, che mi piace pochissimo, è il fatto che in questo momento si chiede a tutti un sacrificio e credo che la magistratura, che ha sempre risposto nei momenti difficili della vita del paese, non solo facendo il proprio lavoro, ma anche con un senso, credo che alla fine coglierà e darà una disponibilità. Senta, qui Legnini, che è il nuovo vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, l'altro giorno ha detto c'è stato uno sconfinamento dei magistrati ed è una patologia da superare. Sono parole sue, è d'accordo? Solo parzialmente, perché credo che Legnini non riconosca un dato che noi politici dobbiamo riconoscere, che questo sconfinamento, che non è stato solo della magistratura ma anche di altri soggetti, è la conseguenza di un ritrarsi della politica. La politica, politica ha rinunciato a un proprio ruolo di orientamento della società. I vuoti si riempono, insomma. E anche, no, l'opinione pubblica poi chiede a qualcuno di svolgere quella funzione. La politica ha rinunciato a un progetto di trasformazione della società. Ma c'è stato un problema di eccesso di protagonismo di una parte della magistratura o no? In questa supplenza è evidente che talvolta c'è stato. Quello su cui bisogna interrogarsi è perché l'opinione pubblica si è rivolta talvolta alla magistratura, certo, a conduttori televisivi, era meno credibile. Il tema, ma non è solo una questione di credibilità della classe politica, è una questione anche, no, è una questione di funzione. Se la politica dice che ci pensa tutto il mercato, che l'Europa ci ha detto di fare questo piuttosto che fare quell'altro, alla fine inevitabilmente c'è una situazione nella quale si misura un'impotenza della politica. Sì, però, Ministro Orlando, senta, a proposito del rapporto tra politica e magistratura, cosa diceva nell'83 Enrico Berlinguer? Recentemente avete accusato una parte di magistrati italiani di iniziative strumentali. In che senso strumentali? Basta pensare alle iniziative contro il sindaco di Roma e contro gli assessori Nicolini e Rossi Doria, che poi si sono sgonfiate, per comprendere che qui ci siamo trovati di fronte quantomeno a una improvvisazione e a una fretta. Secondo lei esiste un problema di protagonismo eccessivo, soprattutto di irresponsabilità dei giudici? Possono esistere dei fenomeni di questo genere, ma la soluzione peggiore sarebbe quella di sottoporre i giudici al controllo del potere politico, cioè del governo. Lei pensa che invece la soluzione del giudice elettivo, almeno per una parte dei giudici, potrebbe essere positiva o no? In linea di principio sì, nelle attuali condizioni italiane ho timore che se si adottasse quella soluzione si andrebbe anche in quel campo a delle lottizzazioni. Beh, che effetto le fa Berlinguer dell'83, che poneva già dei problemi che sono ancora lì? Beh, mi sembra che la risposta, il cuore della risposta che dà è assolutamente condivisibile. Ci possono essere protagonismi, ma la soluzione non può essere quella di sottoporre la magistratura al potere politico. Certamente. E direi che dopo molti anni quella in linea di principio forse va anche superato, perché essendo le condizioni le stesse, cioè il rischio non solo della lottizzazione ma del controllo anche di poteri criminali, diciamo, del percorso elettivo, l'idea di una magistratura elettiva penso che non sia ormai neppure da prendere in considerazione, neppure in principio. Ecco, senta, adesso a Palermo c'è un processo che ha come testimone il Presidente della Repubblica, interrogato oggi al Quirinale. Ma è normale che anche l'avvocato di Totorina possa intervenire? Preferisco nel giorno dell'udienza non entrare nel merito di un processo che è aperto. Sul l'aggettivo normale, diciamo, non è esattamente quello utilizzabile per questa vicenda. Lei quale utilizzerebbe l'aggettivo? No, in questo momento non ne utilizzerei. Senta cosa ha detto Legnini, qui sempre il vicepresidente del CSM, quando sembrava che fosse certo che gli avvocati di Rina non avrebbero partecipato all'interrogatorio di Napoletano. È giusto, è un bene che ciò non sia accaduto per il prestigio delle nostre istituzioni, della Presidenza della Repubblica in particolare, è una buona notizia. Secondo me sarebbe stato meglio fermarlo prima. Sarebbe stato meglio anche secondo lei fermarlo prima? No, non entro nel merito dei procedimenti aperti, credo che sia incompatibile con la funzione che sto esercitando. Senta, Ministro Orlando, voi avete cominciato la riforma della giustizia del processo civile, perché? Perché da molto tempo è quello di cui non si discute, perché è la cosa che impatta di più sulla vita economica del paese, quella che è la giustizia che entra in tutte le famiglie, ed è quella appunto di cui ci si è di più disinteressati, perché si è occupati prevalentemente della giustizia penale. E partire da qui già di per sé io credo che sia un elemento di forte cambiamento. Non era paura di affrontare la giustizia penale per prima? Ma guardi, il civile è proprio l'ambito nel quale la caduta della giurisdizione è stata più forte. Noi abbiamo processi che durano 12 anni, 5 milioni di cause pendenti. Dire che affrontare il civile lo si fa per paura, diciamo, mi sembra, ci vuole molto coraggio per affrontare una situazione del genere. Senta, ma qual è il punto più qualificante della sua riforma del processo civile? Non dovesse dire uno. Tentare di dare una risposta più articolata a una domanda così complessa, mi spiego, specializzare i giudici, non ci può essere il giudice tuttologo, e provare a far sì che anche gli avvocati aiutino a far fronte a questa mole di domanda di giustizia. Senta, sulla responsabilità civile dei giudici però c'è bagarre, è giusto che come ogni cittadino anche un giudice che sbaglia paghi, è giusto o no? Tenendo conto del ruolo che svolge il giudice, nel senso che non, l'errore del giudice deve essere... L'errore va pagato, insomma va censurato, no? L'errore va censurato, ma bisogna anche evitare che le modalità di censura inducano un conformismo nell'attività del magistrato. Ma come va censurato? Ma censurato il cittadino che sbaglia paga. Il cittadino che sbaglia dipende che tipo di errore fa, anche sì, in sì, questo ma caso. Paga tanto, poco, non lo so. Il giudice non deve avere, diciamo, l'incubo di una costante censura, cioè non deve sottrarsi, diciamo, ad affrontare alcuni processi importanti, non deve mettersi al riparo replicando le decisioni dei propri colleghi. Noi abbiamo interesse a una magistratura che sia libera. Sì, ma allora rispetto all'errore? Allora rispetto all'errore bisogna impedire che ci sia un blocco all'entrata nei ricorsi, come invece è avvenuto fino a qua, cioè superare quel meccanismo di cosiddetto filtro che in verità è stato un tappo e ha fatto sì che ci siano soltanto 4-5 provvedimenti di condanna nel corso di un anno. E poi bisogna fare in modo tale che quando c'è un riconoscimento di responsabilità, per una quota parte con certezza il magistrato sia chiamato a pagare una quota parte. Ecco, senta cosa diceva 30 anni fa Montanelli su questo punto. Io sono convinto che la magistratura debba essere indipendente, però chiedo ed esigo che abbia un autogoverno di controllo e che soprattutto risponda dei suoi gesti. Oggi noi abbiamo una magistratura che non risponde a nessuno dei suoi errori, spesso catastrofici. Ecco, è in questa direzione che va la sua idea di riforma? Sì, anche se rispetto ai tempi di Montanelli un fatto nuovo c'è, che il disciplinare del CSM funziona di più e meglio di quanto non funziona. Però se sono stati 5 solo i procedimenti. Parliamo della responsabilità civile, i casi del disciplinare sono molti di più. Tutte le settimane la commissione si riunisce e ci sono moltissime censure, fanno meno notizia di un procedimento per risarcimento danni, ma ci sono. Senta, ma dal plenum della magistratura di mercoledì prossimo, lei si aspetta qualche proposta per la responsabilità civile dei giudici? Ma io me lo auguro, e mi auguro soprattutto che qualcuno dica se la legge attuale va bene così oppure no, perché se mi si dice di sì, allora bisogna che ne discutiamo seriamente. Perché... Senta, lei è sempre stato considerato un garantista. In una parola, cosa vuol dire garantista oggi? Garantista significa mettersi dalla parte delle persone più deboli che impattano nel sistema della giustizia, siano vittime o siano imputate. Ecco, il Papa ha denunciato la carcerazione preventiva come una forma di pena illecita e occulta. Ha ragione? In molti casi questo rischio c'è, tant'è che il Parlamento sta portando avanti una legge di riforma su questo punto che mi auguro sia approvata nel più breve tempo possibile. Ecco, dove il rapporto è sempre stato complesso, spesso ambiguo, è quello tra magistratura e informazione. Senta ancora Montanelli su questo punto. I giornalisti hanno la loro parte di colpa perché senza dubbio tramutano tutto in spettacolo, tramutiamo perché anch'io appartengo alla categoria. Noi facciamo sempre della dietrologia, noi facciamo sempre del sensazionalismo, noi abbiamo bisogno dello spettacolo, questi sono dei grossi vizi del giornalismo. Questo aver trasformato il giudice in una star. È una richiesta della magistratura, dei giudici, oppure sono stati giornalisti? È un incontro fra due disfunzioni e fra due colpe, quelle dei giornalisti e quelle della magistratura. Ma le colpe dei giornalisti sono meno gravi di quelle della magistratura. Beh, sono passati 30 anni, più o meno siamo ancora lì tra magistratura e informazione. Ma io aggiungo quel dato che le dicevo prima, che una politica più debole, che ha meno ambizioni, meno prospettive di trasformazione, lascia questo spazio. Aumenta questo spazio. Sì, punto. Ecco, però, quando si arriva a uno scontro come quello in atto tra il procuratore capo di Milano Brutti Liberati e il suo vice Robledo, ma il cittadino cosa deve pensare? Che si tratta di un consorzio umano, anche una procura, e come tale ci sono gli scontri, ma ci sono anche gli anticorpi, perché la procura di Milano, questa vicenda non ha impedito alla procura di Milano di funzionare e di svolgere il proprio lavoro. Sì, però magistrati importanti su questo punto fanno una profonda autocritica. Senta il procuratore capo di Roma, Pignatone, e Ilda Boccassini. Se le prove non le troviamo, non sono sufficienti, dire sì, però facciamo spuntare tutto sui giornali. Perlomeno sarà danneggiato come uomo politico, come imprenditore, come magistrato, quello che volete voi. Noi dobbiamo cercare le prove, fare, se ci riusciamo, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà, cercare di non fare mai il callo. Ho avuto un forte scontro con una forza di polizia a Roma perché, avendo ritenuto di aver identificato l'autore di una violenza sessuale particolarmente efferata, hanno dato, prima ancora della decisione del giudice, è stato dato il nome, il cognome, è comparso il viso in televisione e tutto, una persona che era assolutamente innocente. Noi ci siamo arrivati in 36 ore a dimostrare l'innocenza. Nel frattempo la vita di quest'uomo era stata rovinata perché era stato ovviamente licenziato, aveva dovuto cambiare quartiere, probabilmente sarà andato via da Roma. Ci sono dei magistrati, dei pubblici ministeri che forse hanno utilizzato il proprio lavoro per altro, è inutile negarlo. Questo c'è stato e io mi auguro che non ci sarà più. Una seria autocritica anche all'interno della magistratura, che doveva fare e non l'ha fatto dopo la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Beh, mi sembrano due autocritiche fortissime, no? Assolutamente sì, e mi pare che colgono dei fenomeni reali, anche se devo dire che in questi mesi questo tipo di fenomeno si è un po' ridotto, insomma negli ultimi due anni abbiamo meno star anche dal punto, al di là del fatto che si debba intervenire per cercare di togliere dai fascicoli ciò che non è penalmente rilevante, come a proposito di intercettazioni, però penso che c'è stata anche una maggior consapevolezza della magistratura e sta andando meno roba irrilevante penalmente sui giornali. Ecco, ma sulle intercettazioni, sul loro uso, qual è il suo pensiero preciso? Che ciò che non serve al processo non deve diventare oggetto di diffusione a mezzo stampa, quindi nessun limite alle intercettazioni, che sono uno strumento di indagine fondamentale, ma un passaggio che consenta di ripulire le ordinanze, di togliere tutto ciò che non è penalmente rilevante e che consenta da questo punto di vista di tenere insieme. E quando non viene fatto? E quando non viene fatto, naturalmente si tratta di individuare gli strumenti mediante i quali intervenire. Senta, resta il nodo dell'obbligatorietà dell'azione penale. Va conservata così com'è? Io penso di sì, per due ragioni diverse. Uno, perché non mi pare ci siano le condizioni e non credo neanche sia utile affrontare il tema della modifica del titolo quarto della Costituzione. In secondo luogo, perché penso che prima di tutto si tratti di intervenire sui numeri. La discrezionalità del magistrato è cresciuta perché sono aumentati tantissimi procedimenti e quindi si trova a scegliere tra diversi procedimenti. Noi stiamo lavorando per ridurre il flusso in entrata. Questo è il modo, io penso, più e dare anche una maggior flessibilità poi nella valutazione. Adesso stiamo esercitando una delega per l'archiviazione per tenue entità o irrilevanza del reato, quindi consentire anche che le questioni di minor rilevanza non diventino un procedimento che arriva fino in Cassazione. No, siano archiviate prima. Ecco, lei ha sempre detto: non faccio patti sotto banco. Esiste un capitolo sotto banco del patto del Nazareno che lei sappia? Che io sappia no, ma penso anche che lo escluderei in assoluto. Ma se ci fosse lo denuncerebbe? Ma se ci fosse non farei questo lavoro, ma non perché non penso che non si possa anche discutere, e anzi c'è un'interlocuzione, una dialettica che è evidente tra le forze politiche. Penso che però su un tema come questo i patti devono essere, se ci sono, pubblici, nel senso che si tratta di spiegare all'opinione pubblica perché ci si è messi d'accordo che cosa bisogna modificare. Che cosa? Senta, ministro Orlando, ma sull'autoriciclaggio i magistrati hanno posizioni molto lontane dalla vostra. Sarà uno scontro lì? In verità i magistrati hanno anche posizioni molto lontane tra di loro, perché ci sono state interviste che dicevano cose molto diverse da parte di alcuni magistrati rispetto ad altri. E secondo lei il punto d'incontro qual è? Ma abbiamo fatto dei passi avanti che hanno ridotto molto le distanze anche tra alcune posizioni che ci sono state. Certo, un punto fondamentale è questo: l'autoriciclaggio deve servire per punire l'inquinamento dell'economia da parte dei capitali criminali, non deve essere un moltiplicatore di pene che sono già previste per altri reati. Senta, Renzi ha detto: Orlando è un po' Doroteo, non so dopo questa intervista cosa pensare, ma lei si è offeso? Ma io no, non mi sono offeso. Perché? se voleva dire, un po' schematizzando, che ho una forte propensione al dialogo, al confronto, diciamo anche a ponderare molto le posizioni. Devo dire che dal punto di vista in che caso si sentirebbe offeso invece? Mi sentirei offeso perché io ho incominciato facendo politica contro i Dorotei. Io mi sono iscritto molto giovane al Partito Comunista e i Dorotei erano i nostri avversari, e il fatto, diciamo, di esserli anche riusciti a battere in qualche modo storicamente è un fatto che rivendico. Senta, ministro Orlando, prima di chiudere faccio sentire l'impegno preso dal vicepresidente Legnini su un tema molto caldo. Quindi il suo CSM, quello guidato da lei, la stagione dell'uso personale a fini, come dire, di gloria personale, finisce? Deve finire. Senta, un'ultimissima, d'accordo? Mi faccio tantissimi auguri di buon lavoro. Non è tanto convinto. No. Senta, un'ultimissima domanda. Il giudice Tranfa, presidente del collegio della Corte d'Appello di Roma, si è dimesso dopo la sentenza di assoluzione di Berlusconi sul caso Ruby. Ma come giudica un atto di questo genere lei? Un errore, perché credo che le responsabilità si assumano insieme e si condividano insieme. Quindi è sbagliato? Sì, ma questo penso che sia un elemento che prescinde persino dall'ambito della magistratura. Credo che sia una cosa che dovrebbe regolare la vita pubblica in tutti i suoi ambiti. Mix 24. Allora, Pietrangelo, il titolo dell'intervista del faccia a faccia? Non è Togliatti, è Mariano Rumor. Ah, proprio quello che lui ha detto che non voleva essere. Mario è fuori sede, penso che non sia. Sei arrivato? Sì, l'intervista non aveva fatto in tempo, allora andiamo con la canzone. Pietrangelo, Okay. Vai. Oggi è il 28 ottobre, vogliamo ripetere? Non c'è dubbio. Allora, il mese è ottobre, oggi è il 28 ottobre, allora? Data fausta nel libro di Paolino Isotta, assieme ad altre date, considerata tra le più importanti nei cieli d'Italia, si festeggia e oggi è il compleanno di Sara Tardelli. Ah! A cui dedico questa canzone. Allora Sara, auguri da tutti noi, buon compleanno e buon 28 ottobre. Carina, carina, diventi tutti i giorni più carina, carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa. Hai capito Mario? Non lo sapevi, sì, fagli gli auguri, ma... Ho capito che quando il gatto non c'è i topi ballano, purtroppo ne approfitta. Sentiamo cosa bolle nella tua pentola. Vai, vai. Forse c'è un equivoco, giovanotto. Lei è venuto qui, non ha soldi investiti, non ha titoli, non ha bot, non ha niente e vuole 100 milioni. E pretende che noi glieli diamo? Dettone! No, non ho niente! Certo che non ho niente, vengo a chiedere 100 milioni. Perché se avessi 1 miliardo me li darebbe 100 milioni? Certo. Ah sì, eh? Certo! Ma se avessi 1 miliardo, glieli darei io a lei 100 milioni! Allora, se io ho bisogno di una melanzana, devo andare dall'ortolano, devo avere 1 miliardo di melanzane a casa? Direttore! Ma dove siamo arrivati? Insomma, le melanzane, i soldi, i miliardi, i 100 milioni, avete capito tutti che con Benigni in realtà noi parliamo di banche centrali. Allora, Giovanni, la Federal Reserve si riunisce per 2 giorni. Tutti o molti, diciamo così, si attendono alla fine del programma di acquisto dei titoli, no? Il cosiddetto quantitative easing. In realtà non è detto che si prenda questa decisione, che sarebbe di grande impatto ovviamente, soprattutto perché ci sono delle difficoltà in Europa, come sanno bene i nostri ascoltatori, cioè la Francia ha problemi di budget, l'Italia pure, la Germania ha frenato la crescita, i mercati attendono. E quindi l'America aspetta anche lei, tu pensi? Io penso di sì, che aspettano ancora un po'. Potrebbero addirittura fare una sospensione per e vedere come va per un paio di mesi, però insomma questi esperimenti in materia economica sono sempre un po' rischiosi. Poi tieni presente che la Banca del Giappone va avanti con il suo programma di espansione monetaria, quindi ci sono molte variabili in corso. Una cosa è certa, per l'Europa c'è una grandissima incertezza. Yes we can, the opportunity and prosperity. Yes we can, the opportunity and prosperity. Yes we can. Yes we can, ve la ricordate? Tu Giovanni te la ricordi? Grandi speranze, grandi speranze. Ma non era Veltroni? Non solo. Non so chi sta peggio, forse Walter sta meglio alla fine. No, insomma, Obama ha una presidenza, un second term disastroso. Adesso non se ne parla in Italia, ma insomma si vota, ci sono le elezioni in medio termine tra poco, il 4 novembre, e per Obama le cose vanno male. È la classica crisi della presidenza americana nei 6 anni, no? E il presidente perde sempre le elezioni, comunque viene messo all'angolo. È successo nel 58, nel 66, nel 74, nell'86 e nel 2006. Resta da capire a questo punto in realtà come si va alle presidenziali e soprattutto chi sarà il candidato democratico, appunto, Hillary Clinton e chi il repubblicano, Jeb Bush. Ma intanto prepariamo i popcorn per il 4 novembre. Vedremo. Intanto vediamo la quota rosa di oggi, nel giorno del suo compleanno, cosa ci racconta? That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. Ci sono alti e bassi, non posso nasconderlo, ma questa è la vita, diceva Sinatra. Per esempio, il giorno del vostro compleanno è un alto o un basso per voi? 349-238-6666, così scopriamo se vi piacciono il compleanno. Io lo adoro perché possiamo almeno un giorno all'anno concederci proprio tutto quello che ci piace. Io per esempio adoro leggere l'oroscopo dell'Internazionale. Oggi ve lo beccate perché lo dedico a tutti gli scorpioni come me. quando si gioca a Scarabeo gli avversari migliori sono i bambini, dichiara la scrittrice Leibowitz, perché è facile batterli e divertente imbrogliarli. Non dico che dovresti seguire il suo consiglio nei prossimi giorni, Scorpione, ma forse puoi prendere in considerazione una sua versione un po' meno cinica. Per esempio, potresti cercare facili vittorie per aumentare la fiducia in te stesso e affinare le tue capacità. E se tutto va bene, tra una settimana sarai pronto a raccogliere sfide più ambiziose. Quindi, Scorpioni, scaldate il pungiglione per le nostre nuove sfide. Quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano. E allora Salamino. Salamini ministeriali, ministri surreali, ha detto la Camusso dei ministri che ha costretto, che qui si è costretta in un confronto appunto surreale. Ma la questione adesso è un'altra. Faccio una domanda a me stesso e la rivolgo a tutti. Il ministro della sanità, per esempio, sa forse maneggiare il bisturi? Il ministro della guerra, il ministro della difesa, sa forse sparare? Il ministro delle riforme, la soave Maria Elena Boschi, sa forse dipingere, Giovanni? Ma così come pittava il suo riferimento politico. Non è mai venuto a dircelo. Il celeberrimamento dei fanfari? No, immagino di no, che non sappia appunto dipingere. È successo che Fleur Pellerin, ministro della cultura della Repubblica Francese, non ha mai letto Modiano, che è il premio Nobel della letteratura, e durante un'intervista ha confessato di non leggere libri da 2 anni. A suo proposito è stato detto che c'è la squisita barbarie. In compenso però noi abbiamo il nostro ministro della cultura, Dario Franceschini, che è uno scrittore innanzitutto, per non dire di Matteo Renzi, che legge tantissimo, non solo legge Murakami, ovviamente legge Fabio Volo, che però in un colpo di scena, consapevole d'aver ridotto come ha ridotto la letteratura a una sorta di renzismo, ha preso le distanze da Renzi. E siccome tra surreali e disagi di tempo e di lettura, una dedica se la meritano, e io, grazie a Renzo Arbore, farei così. Signorina Maccabei, per favore dica lei dove sono i Pirenei. Professore, io non lo so, lo dica lei. E sentiamo Massinelli, dimmi ore degli Assinelli, dove sono i Dardanelli. Professore, io non lo so, lo dica lei. Prima della pubblicità vogliamo fare gli auguri, oggi siamo in vena di auguri a Martina di Genova, che ha compiuto 62 anni, e quindi tanti auguri anche a lei. 800 24 00 24 è il numero verde, lo ricordo, l'SMS 349 238 6666. Ricordo ancora ai nostri ascoltatori che è gradita la firma sugli SMS, perché sennò diventa difficile leggerli. Mix 24. Oggi, giornata di compleanno, ci chiedo di fare gli auguri a mia sorella Miranda da parte di Michele, suo fratello maggiore. Bene, noi gli facciamo gli auguri volentieri e andiamo col canzoniere. Miserabile, che mi rimproveri la mia vergogna proprio nel momento in cui forse stai per uccidermi. No, non ho detto che non mi conoscevi. So bene, demonio, che ti sei immerso nelle tenebre del passato e vi hai letto, alla luce di chissà quale fiaccola, ogni pagina della mia vita. 800 24 00 24 numero verde, se avete indovinato, oppure SMS 349 238 6666. Non tutti sono contenti del loro compleanno. Cinzia, per esempio, ci dice: so di avere un anno in più, inoltre mangio dolce e ingrasso. Cosa c'è di positivo? Vabbè, insomma. Bisogna ingrassare. Vabbè, adesso non entriamo in questa discussione. In ogni caso, abbiamo dato il numero per il canzoniere. Salamino. Sono 18.500 lire, che paga subito? Pietà, pietà! Che pietà? Pietà! Noi funzionari del fisco siamo inflessibili! Non ho pagato! Non ho pagato! Lo so che non ho pagato! Io non ho pagato! Lo so che non ho pagato! E non si arrabbi! Non è Salamino, è la bolla di Mario, scusa. Vai Mario! Allora, qua non ha pagato, divertendo, perché tutta questa scena ci ricorda che cosa? Che l'Unione Europea vuole la bellezza di 2 miliardi di euro in più dal Regno Unito. E David Cameron ha detto: no, io non pago. E anche i funzionari europei hanno detto: ah, ma si apre il vaso di Pandora. Allora, sai, io sono curioso, Giovanni, di capire che cosa succede nel vaso di Pandora. Ma pagherà o no? Ma secondo me chiederà un forte sconto, minimo. Io al suo posto non pagherei neanche, perché mica può funzionare così un'Unione Europea, diciamo. Ma se non pagasse, Mario, se non pagasse, cosa può capitare? Per niente. Ma niente. Niente. Che fanno? Lo cacciano. Che fai mi cacci anche lì? È tutto molto surreale. Secondo me la politica europea sta vivendo la sua più grossa crisi da quando c'è l'Unione. Di credibilità, francamente. Sì. No? Sì, poi si cominceranno a fare i conti anche, se non ho capito male da quello che ha detto Renzi, a fare i conti anche su quanto costa tutta la baracca di Bruxelles. Beh, lì ne vedremo. Ci sarà da ridere. Io ho fatto delle inchieste a suo tempo e i costi sono veramente surreali, direi. Va bene, lo vedremo e ne parleremo. Salamini, grazie Mario. E balla e mia, e ci vorrebbe mazzivella. Allora, l'acqua della fontana risultò amara e quindi gira, zompa e balla. La giostra elettorale offre delle sorprese. Il centrodestra, che fu già granitico a Reggio Calabria, ha ricevuto uno schiaffo calcolato nel 60,99%, cioè un 61%, e Giuseppe Falcomatà del Partito Democratico è il nuovo sindaco. Ma quello che più sorprende nel giro di zompa e balla in quest'acqua di fontana calabrese è il dato del Movimento 5 Stelle, che prende l'1,86%. La cosa è curiosa perché fino a 20 mesi fa aveva il 28%, 3 punti in più rispetto alla media nazionale. Ora, la logica quale dovrebbe essere? Quella di capire se nel frattempo Beppe Grillo ha fatto ancora almeno 7, 8 o 18 volte, o comunque ha recuperato questi 3 punti facendo ancora il giro inverso dello stretto di Messina, bracciati a nuoto. E quindi l'unica consolazione, la zitella. Si balla gioventù. Ancora auguri per Sara, Andrea del Treviso. A volte credo che Sara Tardelli sia come quei personaggi mitologici che uno crede inesistenti, bella, brava, intelligente, eppure qui e ci allieta quotidianamente. Auguri Sara. Beh, più di così, un trionfo. Vedi il 28 ottobre hai cosa capito? Porta? Porta tanta fortuna. Veronica da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora? La risposta è il Conte di Montecristo. Giusto, Feltrinelli, brava. Sei Veronica, che sei in macchina? No, sono in ufficio. In ufficio? E che ufficio? Sono un ufficio di assicurazioni. Ah, vi lasciano sentire la radio, che bello. Grazie. E anche perché stipulare l'assicurazione Edmond Dantes non è mica facile. Converrebbe. Ecco, oggi naturalmente dopo il giornale radio con Marina Milone vi parleremo della storia dei virus. È un vero e proprio viaggio quello che vi offriremo nella scienza, nelle sue battaglie contro le epidemie più pericolose che hanno imperversato nei secoli, raccontate da virologi e scienziati, fino ad arrivare al virus naturalmente di questi ultimi giorni, Ebola. Perché non esiste un vaccino contro l'Ebola? Perché non esiste un vaccino contro molte delle infezioni che qui non si riscontrano? Perché non consideriamo quelle patologie come prioritarie? E allora, quando pensiamo di cambiare il mondo, non si tratta solo dell'influenza e non solo della SARS. Il problema è enormemente più grande. E per finire, un pochino di allegria con Piazza Grande di Dalla. Grazie, arrivederci a domani. A modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io. Avrei bisogno di pregare Dio. La mia vita non la cambierò mai, mai a modo mio. Quel che sono l'ho voluto io.